La zanzara extra. Ingegnere? Sì. Come va, ingegnere? Che cos'è sta battaglia che vuoi fare contro le mascherine? Che roba è? Le mascherine sono dannose. La mascherina non serve, è inutile, anche perché portarla fuori con il nuovo DPCM, naturalmente, che è illegale. Oggi la mascherina non è obbligatorio portarla fuori. Portare la mascherina vuol dire assecondare il partito unico dominante in questo momento, vuol dire accettare tutte le balle che hanno raccontato sul coronavirus, ingegnere. E accettare il canale unico dominante, ingegnere. accettare ma quale sarebbe la balla? La balla quale sarebbe? Tutte le balle che sono state raccontate fino adesso. E la palla quale perché sarebbe? Noi sappiamo esattamente che questo coronavirus ha una mortalità inferiore rispetto all'influenza. Addirittura, ma guarda i morti che ci sono stati in alcune poi, località. Per quanto riguarda il fatto della mascherina, è perfettamente inutile, perché tanto se c'è un virus passerebbe lo stesso, non serve a niente la mascherina. Ma hai detto che ci sono dei criminali? Hai detto che ci sono... Noi dobbiamo guardata con la mascherina, perché secondo voi... Andare a passeggiare a 30 gradi in riva al mare con la mascherina. Oggi io sono stato al mare, c'era la gente che passeggiava in riva al mare con la mascherina. Allora uno non deve battersi per eliminare questa stupidaggine. Lei si deve battere la testa. Lei ha battuto la testa. Lei ha battuto la testa. Con un capo con la mascherina sia utile? Hai detto che ci sono dei criminali a Palazzo Chigi che bisogna prendere a fucilate. Ma a Palazzo Chigi ci sono dei delinquenti, dei criminali, c'è della gente che poi viene coadiuvata da un branco di ciarlatani che sta sempre a truccare i numeri per spaventare la gente. Dunque, secondo te non c'è nulla? Confermo tutto. Secondo te non c'è nulla? Perché nemmeno nelle peggiori dittature si impedisce alla gente di uscire di casa. Ci stanno impedendo di uscire. Ma adesso stai uscendo, tu che dici? Adesso stai uscendo, sei andato al mare. Ma sei andato al mare, sei andato. Ma sei andato al mare, come hai fatto? Come hai fatto ad andare al mare? Ma come hai fatto ad andare al mare? Come mettere tutto il potere in mano a una sola persona? Ma come hai fatto ad andare al mare? Una repubblica parlamentare, questa è uno stato autoritario. Ma come hai fatto ad andare al mare? Tutto in mano. Ma non ho capito perché ci hai dato delle teste di cazzo. A chi hai dato? A noi delle teste di cazzo. Guarda che sei incredibile. Ma come si permette quell'imbecille, quello scemo, di dire ingegnere del cazzo? Lo vada a dire al fratello, alla sorella. Poi scusate, non credo che possano essere neanche ingegneri, perché a un livello così basso che penso che il fratello e la sorella facciano i lavapiatti. Sono tutti avvocati. No, a casa mia sono tutti avvocati, caro ingegnerucolo. A casa mia sono tutti avvocati, caro. Vedremo. No, ma nessun tribunale, ma quale tribunale? Ma quale tribunale? Non insulto nessuno. Io non voglio insultarla. Ma io l'ho detto a voi direttamente, perché io ho fatto i nomi. No, ma lei è semplicemente tecnicamente un coglione, ingegnere, dal punto di vista tecnico. Ma lei è un imbecille, cioè, ma come si permette? No, questo no. Ma come si permette? Io adesso la querelo. Ma questo ma, lei, ma chi è lei? Ma come si permette lei di dire che lo Stato è criminale? Ma come si permette lei? Come si permette lei di dire che lo Stato è criminale? Ma chi è lei? No, ma l'ingegnere. L'ingegnere è un punto di riferimento. Con quella voce che non significa niente. L'ingegnere è un punto di riferimento assoluto per la libertà, innanzitutto. Punto di riferimento. Ma chi è quell'imbecille che parla dietro? Parenzo. Sono Parenzo, caro ingegnere. Ma vada via. Sempre con quella voce dietro, c'è una voce veramente che fa cagare. Lei, io ho fatto una perizia. Una voce ridicola. Ho fatto una perizia. Apposta, uno che fa radio, che c'ha una voce di... Io voglio capire, ma come si fa a dire... Io ho fatto una perizia, l'ingegnere è un coglione, ho fatto una perizia. Come fa uno a fare la radio con una voce del genere? Questo è giusto, questo è vero. Ho fatto una perizia e confermo, mi è appena arrivata la perizia, l'ingegnere è un coglione, mi è appena arrivata la perizia, mi è appena arrivata. L'ingegnere è convinto che siamo in mano a una banda di criminali e che ci hanno tolto la libertà. Non sono convinto. Io ho decine di avvocati. Ma quale decine di avvocati? Come me. Ho capito, ma criminali che vanno fucilati. Lei ha bisogno di medici. Lei ha bisogno di medici, non di avvocati. Di medici bravi, di medici bravi. Perché lei praticamente sta lì in base al fatto che è un raccomandato, perché se no non andrebbe neanche a fare lo sguattero, non lo assumerebbero neanche c'è la legge Bassaglia. Sedicente ingegnere. Che sta lì con la vocina dietro. Ma lei sta dicendo che si sono inventati tutto? Si sono inventati tutto. Ma guardi, il discorso dei morti se li inventano ogni giorno, ma questa è la realtà. Ma non si può dire che si inventano i morti. Ma lo stanno dicendo tutti. Ormai stanno seguendo tutte le mie posizioni. Ma non vede gli ex presidenti della Consulta? Sono concordi. Ma, capito, ma lei sta dicendo che si sono inventati i morti? Sta dicendo che si stanno inventando i morti? Mi fa parlare. Io quando ho detto, avete preso in giro il fatto che ho detto l'Italia è la peggiore dittatura nella storia dell'uomo, avete preso in giro, l'ha detto anche Sabino Cassese, neanche nelle peggiori dittature si impedisce alla gente di uscire. Ma stai dicendo che si sono inventati i morti, ingegnere? I morti, sì, perché c'è praticamente il fatto, allora, il discorso dei morti, l'hanno detto loro che non è i morti sono per coronavirus. Ma sia serio, non si renda ridicolo! Mi fa rispondere, o chiudo! Ridicolo! Non si renda ridicolo oltremodo! Basta! Zitto! Ingegnere, stai zitto! Pronto? Pronto? Sì? Chi è, Emilia? Sì. Come stai? Sono Cruciani. Ah, ecco, ci risentiamo. Come andiamo? Ma come dobbiamo andare secondo te? Ma che ne so, sei incazzata e ho sentito che vuoi riaprire. Cioè, vuoi riaprire il centro estetico? Ho capito, non si può, amica mia, fino al primo giugno ma non si può. Non si può. No, io che c'è pure Parenzo, ascoltami, per favore. Certo. Oggi, ma non si può, fino al primo giugno non si può. Non si può, fino al primo giugno, questo è. Questa si chiama resistenza, ok? Io non posso più stare le condizioni di un presidente del Consiglio abusivo. Che dopo due mesi che non mi manda manco un centesimo e si scusa tra l'altro perché 600 euro a me non mi cambiano la vita, di rimanere a casa, io con le giuste dovute misure di restrizioni aprirò. Ho capito, però arriveranno. Ma non può. La disinvestazione. Arrivano i carabinieri e ti fanno richiudere, ti becchi pure la multa. Anche la multa. E me la paga conto la multa, me la pagherà lui la multa. Comunque, capito? Parenzo, sei incredibile. Io lo denuncio perché pubblicamente. Cosa? Ma perché cosa? Non si può permettere di tenere un popolo così abusivamente, perché lui è un abusivo, non si può permettere di tenere le persone a casa senza nessuna tutela a anche economica. Comunque la cosa incredibile è un'altra, caro Parenzo. Tu, sì, tu ripeto per l'ennesima volta, tu fai i collegamenti per la 7 su un terrazzo, su un terrazzo, enorme terrazzo romano, ricevi tranquillamente i soldi, il tuo bonifico mensile, perché lavori, per carità, però ricevi tranquillamente il tuo bonifico mensile, sei, come dire, protetto, hai tutti i soldi che ti arrivano, lo stipendio, eccetera, eccetera, e stai denigrando questa povera estetista. Stai denigrando Parenzo, non mi devi denigrare, te lo dico io perché quel cornuto è sfiduso di Conte. Tutte noi categorie che siamo artigiani, commercianti, l'Inps, quando si deve mandare l'Inps, le rate, caro Parenzo, sai com'è, puntualissima l'Inps, la famosa Inps, i soldi invece che ho sei in trincea non devi manco un centesimo, capito? Ho strappato l'Inps. Però, no, te lo dico io, aspetta. Sì. Non dobbiamo fare audience, te lo dico io. No, che odio. Questa è una tragedia, signora. Io ho 42 anni di contributi che devo andare a versare all'Inps, avrò neanche 700 euro. Tu sei un parlamentare con una pensione aggiuntiva prenderà 1000 euro. Hai capito, Parenzo? Tu il culo ce l'hai coperto. Brava, e lì arriviamo. Sono parlamentare, puoi essere un dipendente di qualsiasi cosa. E lì arriviamo. Diciamo, tu l'hai visto per caso il collegamento oggi con la 7, col maglioncino? Non l'hai visto, vallo a vedere. E guarda la differenza che c'è tra Parenzo, tra te, un parrucchiere e altre persone che sono costrette a fare la fame. Perché Parenzo, ascolta, ma che ti sembra che sia stato solo tu nella vita? Il problema improvvisamente sono diventato io. Non capito come improvvisamente la storia è girata contro di me. Ma io non ho capito niente, dico semplicemente che la signora parrucchiera, alla quale va tutta la mia stima, l'estetista, quello che è estetista parrucchiera, purtroppo quei mestieri... l'amica estetista, ma non l'ho offeso, stai denigrando. Vabbè, comunque andiamo. Siete pazzi, ho detto estetista. Perché non ti denigra, perché è una cosa inutile. Ma, signorina, io voi avete bevuto, non ho detto assolutamente una persona che tutto ha studiato, con una bellissima carriera dietro le spalle, che non deve andare a leccare il culo a nessuno per avere quelle 100 euro, ma me le guadagno, capito? La resistenza dell'estetista, la resistenza. Bruciano, sei veramente migliorato, ti devo fare i miei complimenti, anche perché ho visto che non ti faccio più schifo, anche perché se non ti faccio più, hai capito la situazione com'è, il mondo gira, non ha capito niente. Ma ti ha appena detto che non devi aprire, non ha capito nulla, è un demagogo del cazzo quello lì. Ma chi sei tu per dirmi che non devo aprire? Chi sei? Ma non io! L'ha detto Cruciani anche! Ma guarda che qui siamo alla Ma chi sei per dirlo? Cruciani ha esordito dicendo non puoi aprire. No, quello perché c'è scritto. E allora non posso aprire, ma io apro. Io ho detto la stessa cosa, però perché ha attaccato me? Non si capisce. Brava, incatenati. Ciao Emilia, ciao. Cruciani, incatenati, avanti tutto. Mi raccomando, avanti tutto. La Zanzara. Pronto? Sindaco! Oh, mi mancava! Grande! Ma com'è che io sono diventato così tifoso di Catena De Luca? È incredibile! C'è Parenzo che compensa eventualmente. Sì, c'è sempre Parenzo che compensa. Allora, dunque, io ho qui davanti a me la norma e ci sono tre categorie in base alle quali è possibile commissariare un comune. Io mi appello al commissariamento del comune di Messina, non solo per indegnità del primo cittadino, perché basterebbe già l'indegnità. Allorché i pagliacci sono diventati proprietari del circo, allorché i pagliacci sono diventati, qui lo scontro tra istituzioni è talmente insopportabile che la vergogna di cui si ricopre il sindaco De Luca dovrebbe far piangere i suoi concittadini. Persone che non hanno nulla da fare come te. Come se almeno ti sta passando il tempo in modo serio. Io ho molto da fare perché lavoro. A Milano quando finirà tutto e guai se non mi trovi la cena. Guai. Scusami, Cateno, e non mi trovi Cateno, perché io sto a Roma. A Messina, se non vi offri una cena ti prendo a calci in culo. Scusami Cateno, però c'è una cosa fondamentale. Oggi mi ma sembra questo che questo è babbo nella partita hai capito? Nella partita con la... Lo faccio con un'ordinanza, prego, stavi dicendo... No, stavo dicendo che mi sembra che oggi ha vinto la Lamorgese, mi sembra di capire. Porca miseria, 1-0 a Pallacento si dice. Ho capito, ma tu hai detto ieri delle cose incredibili, cioè una pistolettata... Che vergogna, cioè una... che no, vergogna. Oggi ho parlato di colpi di lupara di Stato. Ma è lupara di Stato, però è grave, Cateno. Colpi di lupara di Stato. Questo si deve dimettere, questa vergogna, sei una vergogna. No, mi devono destituire, è diverso. Mi devono destituire. Tu stai giocando con le istituzioni, una cosa schifosa. Stai giocando con le istituzioni. Quelle che hanno ridotto l'Italia. Sì, farlocche, ma vergognati in un momento come questo, vergognati a delegittimare i poteri dello Stato. Io propaganda come te, come Campi, facendo propaganda, né più né meno. No, allora, bravo. Però posso dirti una cosa, allora io non riesco a capire questo accanimento nei confronti di un sindaco che alla fine dei conti, no, di alla un sindaco, fine... di un ministro dell'interno, no, no, di un no, sindaco. No, aspetta, ha questo accanimento, parole agghiaccianti. Valenzolo ha ragione Cruciani. Mi fai allora fammi scusami, aspetta Cateno, fammi finire il ragionamento. Sì, allora, non riesco a capire perché il ministro dell'interno, che come dire, in questo periodo ha delle cose da fare, mi pare abbastanza evidente, debba rompere le scatole a un sindaco il quale in fin dei conti vuole semplicemente che in Sicilia entrino solamente le persone che devono entrare. Questo Cruciani, è il punto. Non basta, non basta. Io dico perché rimane in piedi l'ordinanza del presidente della regione Sardegna che ha stabilito che per entrare in Sardegna bisogna prenotarsi 48 ore prima. Perché è rimasta in piedi l'ordinanza del sindaco di Capri che ha stabilito che a Capri si entra con una prenotazione di 24 ore prima. Addirittura chi non la fa viene preso a calci in culo, accompagnato fuori dal territorio di Capri alla prima nave utile. Allora tutte queste ordinanze sono rimaste in piedi, caro Cruciani. C'è un accanimento terapeutico nei confronti di un sindaco che si è permesso di dire al potere prostituito. Non solo che sbaglia, mamma ma che mia, è vergogna. Complice della diffusione del coronavirus con i propri provvedimenti, con i propri atteggiamenti banderuoli, con gli annunci dei provvedimenti e che anche i ritardi, anche di tre giorni, anche ritardi. Questa è la Repubblica delle banane che va presa a calci in culo. Questa è la verità. Scusami, e io continuerò a fare il mio ruolo fino a quando mi ammazzeranno, esattamente con la determinazione dell'uomo di istituzioni, conoscitore di come funzionano in termini pratici i provvedimenti. Scusami, Cateno. Sono orgoglioso. Cateno, però scusami. Io sono la persona che realmente difende gli interessi veri degli italiani e della gente che quotidianamente si scontra contro le nefandezze del palazzo. Hai parlato di potere prostituito, cioè di potere prostituito addirittura, di lupara, cioè sono cose che in Sicilia uno pensa che veramente ti vogliono ammazzare, che ci sia qualcuno che ti vuole ammazzare. Scusami, Cruciani, ma uno, perché c'è altra definizione? Mi dovete spiegare per l'ennesima volta perché i provvedimenti che ho nominato non li ha impugnati nessuno. Mentre quelli del sindaco De Luca sono stati annullati. Ma perché la Lamorgese ce l'ha con te? Ma per un consiglio di Stato che si è riunito all'improvviso. Ma perché ce l'ha con te la Lamorgese? Perché con ce l'ha... la ministra Lamorgese che è consigliere di Stato in aspettativa da settembre 2019. Vergogna! Parenzo, che dici? Io l'ho fatto parlare senza interromperlo perché così la vergogna ha assunto il suo apice massimo. Siamo di fronte a un primo cittadino che sta facendo fare una figura di merda ai suoi concittadini e sta sputtanando una delle più importanti cariche. Parenzo, nei ministeri abbiamo soggetti Ti devi dimettere. Sei semplicemente un buffone pagato coi soldi dei cittadini. Sei un buffone pagato coi soldi dei cittadini. Guarda, guarda, non ho sentito se ha detto buffone. Buffone, buffone. Buffone pagato con i soldi dei cittadini. Buffone, allora ritiro il coglione, perché capisco che devi campare. Pagato con i soldi dei cittadini. Buffone pagato con i soldi dei cittadini. Ci sei anche simpatico, ma quando diventi giullare istituzionale, bravo, ti fai bravo. Soldi dei bravo. Cittadini. Perché sì, ti sei messo in posa come Mussolini l'altro giorno? Era una cosa. Stavi imitando a Musumeci. Ah, sì, non certo. Ero io che facevo Mussolini, sì, ma sì, neanche sì. Questo si è capito in quel momento. No, si è capito. Musumeci, grande uomo di destra. Però oggi ha fatto un grande provvedimento, che è quello di limitare le uscite a una sola persona. Quello è buono. Ah, bellissima. E io su questo gli ho detto grazie, come ha fatto il provvedimento che ordina che tutti quanti devono avere la mascherina. Io infatti sto mandando una lettera a Musumeci chiedendogli 500.000 mascherine immediatamente, perché noi non ne troviamo. Ma tuo giudizio finale sulla Lamorgese qual è? Come lo definisci? Una definizione? Una grande donna, una grande donna di Stato, che io devo ringraziare, che ho mandato anche un mazzo di rose, perché ha avuto la capacità di rendermi più famoso di quanto ero. Quindi io, dopo Pasqua, manderò altre rose, perché onestamente tutto ciò che ha fatto Lamorgese in una settimana, io ho impiegato una vita in politica e non c'ero riuscito. Lei invece c'è riuscito ed ha veramente la mia stima, la mia grande stima. Ok, hai detto che il governo praticamente ha contribuito alla diffusione del virus. Certo, scusami, quando ha annunciato la chiusura dell'Italia e ha fatto i provvedimenti dopo tre giorni e 50.000 meridionali a nord si sono spostati a sud. Giusto, dai, è giusto. Che minchia ha fatto? Giusto, ha fatto questo ed è stato il primo. Ma ha ragione, De Luca. Cosa vuoi contestare di questa roba qui, David? Cosa vuoi contestare? Non c'è nulla da contestare. Sono tutte cose. C'è da contestare. Ma è uno che. C'è un provvedimento del governo. C'è un provvedimento del governo. Lui deve stare zitto e rispettare quello che viene detto. Del mio condominio, perché mi faresti perdere anche quella causa. Ciao, sei scadente come avvocato. Ciao Cateno, meglio Cateno. Fare giullare di corte, ci fai più figura. Comunque, a questo punto meglio l'indipendenza della Sicilia, Cate. Cioè... Io direi l'indipendenza dello Stato da quelle che in ogni caso sono i poteri prostituiti. E vai! Ciao Cate. Sì, pronto? Sì, avvocato Sinagra? Sì. Buonasera, qui Radio 24, disturbo? No, ma Radio 24 di quale televisione? No, il Sole 24 Ore. Poi scambia radio, non TV. Come sta? Quindi la voce del padrone. Un po' la voce del padrone, se vogliamo dirla così, insomma, se proprio, non è che tutti rispondono al padrone, però, avvocato Sinagra. Per fortuna. Appunto. Per fortuna. Però scusi, volevo sapere una cosa. Ho letto con grande interesse la sua denuncia nei confronti del governo. Cioè, le vuole denunciare, il governo ha già presentato questa denuncia. Per quali reati, mi scusi? I reati sono quelli di cui all'articolo 452 che fa riferimento all'articolo 438. Del codice penale, e cioè avere provocato una epidemia o non avere fatto nulla per impedirla o diciamo contenerla. Ma è una cosa gravissima, avvocato Sinagra, questa cosa qua, gravissima si potrebbe dire. Cioè, nel senso, è un'accusa gravissima, come dire il governo è responsabile per migliaia di morti. Diciamoci la verità, è questa la cosa. Esattamente, infatti stavo dicendo, l'altro reato che io ho sottoposto all'esame della procura è omicidio plurimo colposo. Pure. Ma scusi, ma roba da mandare in galera le persone? Cioè quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché, avvocato? Ma perché avvocato Sinatra? Scusi, perché? Superato l'età per gli scherzi e di cattivo lo faccio stare zitto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Pronto. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Ciao, siamo le radio italiane, tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. Ma come ricordarlo? Ora non sono una signora. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme con un evento speciale la storia della radio e della musica italiana. Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. La Zanzara. Allo? Allo, Jean-Paul? Chi parla? Sono Cruciani, come andiamo? Ah, ciao, bene, molto bene. Sei scatenato ancora, scatenatissimo. No, non mi hanno fatto entrare. Dove? L'ho denunciato perché voleva che entrasse con la mascherina. Beh, la mascherina, amico mio. Non mi pare una cosa criminale chiedere la mascherina, scusami. L'altro giorno sono andato in posta, è successa la stessa cosa, ho chiamato io i carabinieri e hanno obbligato la direttrice a farmi entrare a fare la mia operazione. Ma scusami. La legge è chiara, i diritti umani sono al di sopra di ogni cosa. Ma scusa, ma perché non vuoi utilizzare la mascherina? Ci sono le leggi e poi ci sono i decreti. Sì. Il decreto è illegittimo anticostituzionale. Ho capito, ma perché non vuoi usare la mascherina? Perché non vuoi usare la mascherina? Spiegami. Perché il virus passano attraverso la mascherina, non lo sai tu. Ma perché sei ignorante. Tu stai dicendo una cosa contro. Generare paura. Ma che siamo tutti matti? Tutti matti che uno, tu bevi il piscio e noi mettiamo la mascherina e i coglioni. Guarda, all'estero ci sono nazioni intere che non sono state bloccate. Guarda la Svezia, guarda la Germania. Germania, vedo gente con la mascherina. Vai a vederti la realtà della Germania, non la TV che ti passa le frignate. Cioè, tu stai dicendo che è più utile bere il piscio piuttosto che utilizzare la mascherina. Stai dicendo naturale. Lo credo bene, perché con l'urina ti puoi aiutare. Non guarisci totalmente dai tuoi problemi, ma ti può aiutare. Ti può aiutare, sì. Con la mascherina. La mascherina respiri anidride carbonica perché non l'hai. Scusatemi, però. Scusatemi un secondo, ma più pericolosi. Guarda che lo dice un sacco di gente comunque questa cosa. No, ma non mi risulta che siano già le 21. Ragazzi, perché dovete imparare a conoscere cos'è un virus. Non sapete l'ABC di che cos'è un virus. Scusi, forse è l'orario sbagliato. È l'ora del coglione, non è adesso. Strano, no, infatti, che è l'orario, tu ce l'hai tutti i giorni l'ora del coglione. Però posso dire una cosa a vantaggio di Vanoli. Effettivamente, di fronte al disastro della scienza di questi mesi, alle mille opinioni espresse prima dall'OMS, prima da qualsiasi virologo, eccetera, anche la teoria vanoliana ha la sua validità. Non confondiamo il cioccolato con la merda, per piacere. Non confondiamo il cioccolato con la merda. Caro merdoso, ignorante. Ma perché lei si sente chiamato in causa? Non sai che... Perché sto salame si sente chiamato in causa? Un milione di volte più piccolo di un cappello. Non lo sai, dunque dappertutto. Sì, ma lo sappiamo. Beh, ho capito, amico mio, però le mascherine, se tutti quanti dicono di mettere le mascherine è perché qualcuno ci vuole guadagnare, secondo te, allora? Ragazzi, venite giù dalla piazza, siete ancora delle scimmiotte che saltano da un branco all'altro, da un ramo all'altro della piazza. Dunque tu mi stai dicendo che se fanno un vaccino... Solo è rincoglionito completamente. Cioè, se fanno un vaccino tu non lo prenderai mai, se fanno mai un vaccino. Assolutamente, c'è una dose contro in più per gli altri. Evviva, ci sono più dosi problema per gli altri. Il vaccino è perché vogliono bloccare la crescita spirituale dell'umanità. Come la crescita spirituale dell'umanità? Ci saranno solo malati nel mondo, ci saranno solo malati col vaccino. Beh, malati di testa ce n'è uno qui sicuro. Ah, certamente. Ma io voglio capire una cosa. Scusa, non sa neanche nella Torah che sta scritto, dato che tu sei ebreo o dici di essere ebreo. Che c'è scritto sulla Torah? Che si può consiglia di bere l'urina. Ma non dire sto... ancora con sta storia. Sarà vero, però. Ancora con sta storia. Sarà è l'altro che dice che è vero. Ma non certo, ha mai letto la Bibbia in vista sua, Cruciani. È scritto nella senti, a me non mi risulta che ci siano ebrei che bevano piscio. Ti posso dire? Non mi risultano. Non me ne risulta nessuno. Mi risulta un coglione. No, gli ortodossi. Ma secondo vai dagli ortodossi. Secondo te in Israele bevono piscio? Cioè, l'urina. Senti, se tu vuoi continuare a berti l'urina, puoi bertela a litrate, ma non devi dire stronzate. Quando è necessario, ma certo, non quando puoi non fare è anche necessario. I gargarismi, puoi fare anche i gargarismi se vuoi. Ma non tu in questo caso quello che fai tu. Così saccente che non sai che i virus caverna, li autoproduciamo noi. Sì, ma ho capito. Ogni giorno. Ho capito, ma non può essere tutta una scusami. Sì, però scusami Gianpaolo, non può essere tutta una farsa l'incubo in cui è siamo Bill Gates, Rockefeller e i finanzieri rothschildiani. Okay. Che fanno tutto la manfrina, il cinema. Cioè, non ho capito. Allora, sì, che sta Rothschild c'è dappertutto, poveretto. Cioè, delle nazioni, per come è successo già in Italia, si sono comprati le aziende che contavano quando è caduta la borsa. E dunque, che cosa, tutta questa cosa qui, in cui il mondo è tutto bloccato, è opera di Rockefeller, Rothschild e quattro famiglie, secondo te? E difatti l'OMS ha scritto nelle sue dichiarazioni, ad esempio, che la mascherina non serve a un cazzo. Poi ci sono i pirla in Italia che fanno quello che dicono i loro padroni e allora mettono fuori dei decreti senza approvarli entro i termini di legge perché siano leggi, li spacciano per leggi con le loro imposizioni di forza, di autorità e non di legge e il coglione e il gregge esegue, si mette a 90 gradi e se lo fa mettere dappertutto. Ma secondo te bisognerebbe riaprire tutto immediatamente? Immediatamente tutti ma fuori? Certamente! Tutti fuori, tutti fuori così! Non c'è nessuna infettività. Ma no, ma come fai a dire una cosa del genere? C'è tutti... ma Parezzo, digli qualcosa, dai, su. No, ma digli qualcosa. Scusami, non devo dirgli niente. Sto semplicemente chiamando l'ambulanza. Pronto? Sì, chiama l'ambulanza. Chiama l'ambulanza. Perché te la mando. Dove devo mandarla? In via? Dove sta questo? Dove sta questo? Io il carabinieri. Dove abiti? Dove abiti? Dove sta questo qui che gli mandiamo l'autoambulanza? Dove abiti? Dai. Dove abiti? Io sto in Lombardia, certamente. Cioè, ma in Lombardia? Ma roba incredibile. Cioè, tu stai uscendo tranquillamente, ti fai i cazzi tuoi normalmente, esci. Ma certo, è ovvio. Cioè stai praticamente confessando. Esco e mi faccio i cazzi miei. Questo è il punto. Non devo rispondere a nessuno. La salute è mia e la gestisco io. Ciao, Gianpaolo. Ciao, Gianpaolo. Ciao, buonanotte. Pronto? Sì. Oh, Oliviero, come stai? Bella, come stai, amico? Grande. Dammi una mano, Oliviero, perché qui da ieri da solo a combattere contro questi razzisti che insultano Silvia Romano. Ma cosa fai nella fossa delle leoni? Che leoni? Nella fossa dei pirla. Ma che fossa dei pirla? Cioè, è la libera opinione questa qua, libere opinioni. Ma non è libera opinione, avete solamente un'opinione lì di grande maggioranza di teste di cazzo razzista. Ma chi? La minoranza. Ma no, chi? Ma è vero. Tutti, non è vero, purtroppo non avete. Ma che dici? Qui c'è la libera circolazione di idee, libera circolazione di idee, di opinioni. Hanno delle cose pazzesche, hanno detto su quella povera ragazza. Siete proprio diventati il posto, la fogna d'Italia. Ma quale fogna d'Italia, di che cosa? C'ha ragione, tu dici di no, tu di no, io ti dico di sì. Ma che dici? Ma parliamo di qualsiasi cosa noi, Oliviero, parliamo di qualsiasi cosa noi, di sesso, di politica, di società, di buco di culo, parliamo di qualsiasi cosa. Non lasci parlare. Ma figuriamoci se non lascio parlare. No, non mi lasci parlare, mi chiami, mi rompi i coglioni e non mi fai parlare. Ma no, come no? Ma no, scusami, no, ma che c'entra? Pronto? Ma io non volevo mica non farti parlare. No, ma se non fai parlare. Ma figuriamoci se io non ti faccio parlare, ti ho fatto sempre parlare. Fai parlare o no? Ma voglio capire che impressione ti ha fatto l'arrivo di Silvia Romano, che è stata criticata per l'abito islamico, eccetera, eccetera. Questo volevo sapere. Sai che impressione mi ha fatto? Che siete una massa di figli di puttana. Cioè, in che senso? Voi. Questo ma io non voglio neanche fare criticare lei. Le critiche fatte a lei

Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Attimi che diventano storie indelebili nella nostra memoria. Linee d'ombra racconta proprio quegli attimi, piccoli o grandi episodi della nostra vita che ci hanno trasformato nelle persone che siamo, perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Raccontare, condividere stralci delle nostre vite è il miglior modo per affermare: ecco, io sono questo. Le linee d'ombra che abbiamo attraversato ci hanno mostrato spazi, luoghi e mondi che nemmeno noi sapevamo di poter abitare. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo due pagine. E noi, ogni giorno, ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. La Zanzara. Ne parleremo stasera. Allora ragazzi, collegamento con Bologna dove c'è Jessica, prostituta. Buonasera, buonasera Jessica, buonasera. Ciao ragazzi, come stai? Beh, amica mia, bene. Vogliamo ricordare che sei una tra le più apprezzate di Escort Advisor, una delle più delle prostitute più apprezzate nel nostro paese. Possiamo dire quanti anni hai? 23, 24, diciamolo. 26. Che 26 anni. Allora, 26. Da dove viene lei? Da dov'è? Bolognese? Di Bologna, doc? Di Bologna. No. Sì. Ogni tanto va in tour. Doc. Ogni tanto va in tour. Se non è contenta la sua famiglia del lavoro che fa? Lo ma sa, abbiamo già detto questo, che gliene frega, la sua famiglia ormai è una cosa superata, questa roba qua superata ormai. Sì, sì. Scusami cara Jessica, voglio capire come ti stai orientando in questo periodo. Hai ripreso a prendere uccelli, come si dice in gergo, cioè, da un po' di tempo, oppure hai appena cominciato? Diciamo tutta la verità, nient'altro che la verità, giuriamolo sulla Bibbia. Esatto. Allora, io ho riattivato la mia pubblicità il 6 di maggio. Il 6 di maggio. Cioè, tu dal 6 di maggio hai ripreso a lavorare sostanzialmente? A pieno ritmo, sì. Ho fatto nel lockdown solamente quattro ragazzi. Sì, durante il lockdown quattro ragazzi. E come hai fatto? Esatto, così, che erano i miei clienti fissi che abitano qui a Bologna. Ti sei fidata praticamente. Ti sei fidelity fidata. Card, un incontro un po' clandestino. Hai fatto qualche incontro. Nessuno ti verrà a cercare, non ti preoccupare. Ma lo so, tranquillo. Quattro incontri clandestini durante il periodo del lockdown. Esatto, a partire dal quattro. Loro sono stati con la mascherina tutto il tempo. E come hanno fatto con la mascherina? Scusa, trombacco con la mascherina. Nel senso che ho fatto tutto io, se mi capisci. Ah beh sì, ho capito, cioè, ma no, c'è stata penetrazione però o no? Sì, vabbè. Sì. Penetrazione, diciamo... Sì, ma con protetta anche. Vabbè, quello sempre. Grazie, quello voglio darlo per scontato, amica mia, altrimenti siamo a livello, diciamo, di suicidio, siamo a livello di... Anche no, grazie. Ecco, infatti, appunto, voglio dire, ma la posizione è quella che dicevano durante il lockdown, che uno deve mettersi un po', cioè, in modo da non far, no, avvicinare le facce, le bocche, cioè, la classica pecorina, oppure te la sei fregata di quello? No, allora, con... cioè tre sì e uno invece no, uno voleva vederti sopra. Ti voleva sopra, sì, ti voleva sì. Sopra. Però con facce sempre distanti, diciamo, con sì, facce sì, distanti. Sì, esatto. Ma invece sì, dal 4 maggio hai ricominciato a fare clienti normalmente, anche lì un po' violando le regole, diciamo, no? Violazione più, violazione meno. Sì. Sì, ma hai ricominciato a pieno ritmo, che cosa vuol dire? Cioè che i clienti hanno continuato... che ho rimesso la pubblicità, poi non ho i ritmi di quando... Ho finito, l'ho chiuso, chiaro, perché sì. Io sto lavorando solamente con la mia regione adesso. Beh certo, quindi, solamente con i romani, cioè con i emiliani, esatto, bravissimo. Essendo le fiere chiuse, mogli, i trasporti chiusi, ragazze. Verificate quando vostro marito o il vostro compagno. Ci sono molte persone sposate che vengono da te, Jessica? Sì, io direi almeno un 60-70%. 60-70%, sì. Cioè, gli uomini italiani sono alla fine dei grandi traditori, dei grandi puttani. Allora, diciamo la verità. Posso dirti la mia su questo pensiero? Questo è interessante. So che magari le ragazze e le mogli potranno avercela con me. No, però è molto meglio che l'uomo venga da noi, che si faccia un amante. L'amante è pericolosa. Per l'amante un uomo può lasciare la moglie, per noi no. Questo mi pare un pensiero molto corretto. Vai a dire ad Adino Olfi, che è uno invece molto cattolico, che pensa che voi siete il male assoluto. Cioè, voi siete un saldatori di matrimoni. È una vecchia teoria che è confermata anche da Jessica. Cioè, dire questo 60-70% di persone sposate che vanno da Jessica in realtà restano con le mogli, non è che poi le lasciano. Assolutamente. Anzi, grazie a noi, i maschi, sfogano determinate fantasie che se le rompono i maroni invece alla moglie, la moglie li lascia. Cioè, tu dici che, per esempio, che ne so, una delle fantasie più richieste, una delle persone... Non so, uno vuole l'anale praticamente una volta a settimana, magari la moglie proprio non le va, non le piace. O non ha mai dato il culo al marito. Mettiamola in maniera molto pratica. Esatto, e poi sono andata su una fantasia abbastanza easy. Sì, e perché altre fantasie che ti chiedono, per esempio? Mamma mia. Sai, se uno vuole, non so, giocare con i giocattoli. Vabbè, quello anche. Una moglie magari fa fatica. Cioè, giocare con i giocattoli proprio. Con te o dice metterglielo dietro anche a lui? Con loro, anche con loro. Anche con loro. Una delle fantasie più richieste è questa, no? Di prendere. Anche. Di prendere esatto. una fantasia che ti sei rifiutata di fare, per esempio, cioè qual è? Una fantasia che mi sono rifiutata di fare. Una che ti hanno chiesto una cosa e dice: no, guarda, questo qua mi fermo, qui non posso. Allora mi sono fermata allo scat. Quello non ce l'ho fatta. Mi dispiace. Lo scat non ce l'ha fatta. La scat. No. Non ho idea che cosa sia, per fortuna, ma non voglio neanche saperlo. No, voi non sapete, dietro il vetro non sanno che cos'è lo scat. Ma non voglio neanche io. No, la minima idea. Andate a cercare lo scat è quando tu vai sostanzialmente. So che non lo voglio sapere. So già che non lo voglio sapere. Ma è del discorso di prima che facevamo, sai, il discorso. Di prima che facevamo dell'anilingus, so già che non lo voglio sapere. Non è l'anilingus, grazie. Io sto benissimo così, benissimo senza sapere. Quello ti sei rifiutata. Senti, mi sono rifiutata. Ma tu fai poi l'orale coperto? C'è stata una fantasia? Dimmi. No, c'è stata una fantasia che quando l'ho finita, insomma, che lui è andato via, mi sono sentita un po' sporca. Cioè, sono sincera. Dovevo praticamente simulare che io ero sua figlia. Ma no, quello è terribile. Quello è terribile. È una fantasia brutta. Cioè, ecco. addirittura qualcuno ti ha chiesto la simulazione di un incesto, una cosa del genere. Ma sì, roba io devo chiamarlo papi nel rapporto e io chiamo solo mio padre. Ti ha chiesto di chiamarlo papi, non proprio una cosa. Volevo chiederle in genere in queste conversazioni, in questa parte di trasmissione, in genere più ascolto, non intervengo quasi mai. Però ho una curiosità, tra le perversioni, qualcuno le ha mai chiesto di simulare la nipote di Mubarak, ad esempio? Volevo sapere solo questo. O la nipote di Al-Sisi, no? Magari qualcuno. No, per carità, è una domanda. Per simulare la nipote di Mubarak. Io ho questo sogno che tu mi simuli la nipote. Ma secondo te ci sono degli ascoltatori di Mario Giordano? Vanno da Jessica, secondo te? Ascoltatori di Mario Giordano? Guardano, le chiedono di guardare Rete 4 durante i vostri incontri? No, perché sennò la mia fatica sarebbe tripla, quindi no. Ah, vedi, infatti, certo, vedi che anche lei giustamente... Senti, prima parlavamo di una cosa che in realtà non si può fare, non si potrebbe fare durante il... Pensa se qualcuno ti chiede di fare Parenzo, cioè di chiamarti Parenzo, cioè di fare finta di essere Parenzo. Non avrebbe senso. Scusa, prima dicevano che in questo periodo sarebbe sconsigliato una sessuola che ci diceva fare il rimming, cioè dire appunto la rimming. Tu lo pratichi normalmente questa cosa? È una cosa richiesta? Normalmente sì, è una pratica che faccio. È una cosa che richiede. Tu fai praticamente tutto, diciamo la verità. Cioè, io è vero, ho pochissimi limiti, si contano sulle dita di due mani. Ma anche due uomini insieme, Ieri parlavamo con Malena, che lei impazzì. Ah sì, due uomini insieme li fai. Io sono arrivata a farlo con 13. Con 13. E mi è piaciuto un casino. Con 13. Cioè, tu, per esempio, bagnata dalla testa ai piedi. Mamma, tu sei un amante, per esempio, come Malena, delle doppie. Delle doppie. Ah, sì, no, a me piace. Ti piace molto? Sì, le consigli alle donne? Le puoi consigliare alle donne normalmente? Allora, non lo consiglio perché? Ma perché devi essere veramente, come posso dirti, predisposta. Perché se no l'avverti tutto, diciamo, come una forzatura. Fuori dal coro, e lo diciamo qui. Quanto prendi allora in questo periodo tu? 300 un'ora. 300 un'ora, cioè sei una delle puttane più care che c'è sul mercato praticamente. Vabbè, però io considero che ci sono anche determinati servizi che io offro. Tipo? Cioè, nel servizi? Prezzo cosa dite? Non c'è solo la prestazione, ma quando il ragazzo viene lo faccio accomodare, vabbè, gli faccio togliere le scarpe subito, così non cammina con le scarpe in casa. E poi gli fornisco tutto, dal colluttore, igiene intimo, igienizzante mani, il proprio asciugamano. Ogni volta, cioè, fornisci un servizio completo, diciamo, un servizio completo. Esatto. Completo. Ogni ragazzo ha un lenzuolo. Ma le coppie ti chiedono quello? Le coppie ti chiedono qualcosa? Sì, lo fa. Fai anche le coppie, La tariffa qual è per le coppie? Allora, io per la coppia chiedo 500 un'ora. Amica mia. Però guarda, se sono sincera, spesso con la coppia siamo arrivati a fare anche 2 ore, quindi 1000, 1003. Cioè, proprio la serata volevano. La serata. Ti abbraccio, amica mia, a presto. A presto. Chi è il numero privato? Maurizia, siamo noi, sono Cruciani. Che disastro. Chi è il numero privato? Sono Cruciani, Maurizia. Ah, Cruciani, hai visto il video virale? Senti, ma chi è quel coglione che ha messo il video della mia lite di ieri? Ma non lo so, chi l'ha messo? Ma perché hai trattato così quell'adorabile signora? Scusami, Maurizia. Adorabile sto cazzo, Cruciani. No, l'ha detto perché Parenzo. Sono arrivati anche i carabinieri, è venuto fuori un sono casino. Parenzo. Cioè, Maurizia... E niente, ieri è successo che ero al supermercato, come tutte le signore e i signori, a fare la spesa, giusto? Ecco. E siccome io sono un'invalida civile al 100%, ho occupato il posto degli invalidi senza che quello di Striscia la Notizia mi mettesse la merda sulla macchina, giusto? Ma che c'entra? Perché ho un tesserino. Allora? Finta questa qui e c'era un posto libero degli invalidi. La parcheggia e mi fa, lei non può parcheggiare qua perché non è invalida. Lui ha detto, signora, mi scusi un attimo, questo è il mio tesserino di invalidità al 100%. Ma lei come presuppone che io non abbia l'invalidità solo perché ho una macchina più bella della sua e la sua fa cagare? Ma scusa, però non c'era così le persone, scusa. Non c'era il non c'era la tessera blu, Maurizia, no? Non c'era la tessera. Io stavo andando via, l'avevo appena ritirata perché avevo finito di fare la spesa. Questa qui aveva bevuto, secondo me se l'ha presa il castellino in El Brick e se l'ha bevuto 1,5 litri. Ma perché? Questo vecchio puttanone. Ma perché hai trattato così quella adorabile signora? Scusami, non si trattano. Allora, se quella signora è adorabile, io sono vergine di culo. Ma scusami, Maurizia, però hai mostrato il culo a quella signora così, hai detto, tieni, bacia questo culo. No, questo culone che ha fatto felici milioni di italiani, è un privilegio baciarlo. Sì, d'accordo, ma com'è finita la storia? Perché tu hai detto a un certo punto, lei ha detto mi vergogno di essere una donna e tu gli hai detto che sei un travestito col pisello. E io gli ho detto, signore, già 3 volte che gli dico che sono un travestito, c'ho sotto il tacchino Amedeo, c'ho sotto una minchia così. Ma non ce l'hai poi. Ecco, ma la finisca, insomma. Ma tra l'altro quella donna avrà avuto una 70 d'anni, io ne ho 65. Smettila di rompermi i coglioni. Ma poi perché mi ha attaccata? Ma che cosa vuole dalla mia vita? Vuole una fetta di minchia? Non te la do, non sei il mio tipo, levati dalle palle. Ma non ce l'avevi nemmeno la minchia. Signore, non parlano attenzione, così, la minchia non bisogna averla per dargliela in testa. Hai capito? Io godo di una Weltanschauung, di una visione totale del globo da quando l'ho tolto. Però scusami un attimo, a un certo punto hai detto pure perché la malattia non ha fatto il suo corso, amica mia. Ma, non si può, ma perché la malattia non ha fatto il suo corso? La malattia si è portata via un sacco di poverine che non si sono neanche rese conto ed erano silenziose, inermi, poveri cristiani e tutto. Questa rompicoglioni è toccata a me, Ma intubatela e portatela via! Ma scusami, Maurizia, semplicemente... Ma intubatela, ma non con cattiveria, mettetegli un tubo di gas nel culo! Sì, ma scusami un attimo, ma Maurizia. Solo perché ti ha fatto notare che avevi parcheggiato la macchina dove non potevi, tutto qua, perché non c'era il cartellino. Lei l'ha parcheggiata di fianco alla mia, non avete capito allora? E poi sei incazzata perché non ha visto il tesserino degli invalidi. No, perché io stavo andando via, ragazzi. Giustamente, ragazzi. Io stavo facendo retromarcia. Poi, giustamente, ma non è la polizia questa qua, poi, che vuole pure, ha ragione, no, Maurizia. Bravo, Cruciani, questa si è presa la briga di dirmi, di farmi notare che io ero su un'area per invalidi civili. Ma allora mica la polizia. Il mio tesserino, gliel'ho fatto vedere, gli ho detto: mi scusi, guardi che io sono un'invalida civile anch'io. E questa insisteva, e questa insisteva, e questa insisteva. Ma questa rompicoglioni insisteva. Vabbè, ma insomma, com'è finita la storia? Ma suo marito invece di fare i pompini gli faceva i rigatoni. Ma sua, com'è finita la storia, Maurizio? Come si fa a parlare in questo modo? Ma perché deve parlare così di un'adorabile signora milanese? Ma guarda, è incredibile. Ma com'è finita sta storia che dice che sono arrivati i carabinieri? Non ho capito, Maurizio. Ma no, poi a un certo punto arrivano 8 moto con carabinieri, è arrivato e mi ha detto: Maurizio, ma cosa succede? E succede che questa qui mi attacca mentre io ho già messo in moto la macchina e sto facendo retromarcia per andare via. Io sono sul posto dei disabili, ho un tesserino di invalidità. Ma pure le tette, a un certo punto pure le tette. Ho avuto una leucemia. Ma pure le tette hai tirato fuori a un certo punto, no. Pure le tette hai tirato fuori, dai. Ma attenzione, ho tirato fuori dai carceri, non hanno tirato fuori quelli del 41 bis che hanno ammazzato un sacco di gente, ma e hanno ammazzato un sacco di carabinieri. Saranno meglio le mie tette oppure quelli che hanno tirato fuori dai carceri? Ma, sì, ma cosa vuol dire, scusa? Ma che non è un paragone che si può fare, però questo che c'entra? Succhiamele Troia, succhiamele, così hai detto. Sei tornata la Maurizia Paradiso di un tempo, all'attacco per strada contro la gente. Ma scusa, capezzoli alti e diamo senso al buon senso, che cazzo di galeazzo. Vabbè, Mori, Viva Cruciani, prima o poi ti farò un pompino. No, vabbè, adesso questo non esageriamo. Bello, questo è un annuncio interessante a questo punto. Va ciao, bene, Maurizia, va bene. Ciao, abbraccio. Ciao. Arrivederci. Allora, è arrivato come al solito, puntuale, il momento Saulino. Buonasera, Paola. Buonasera. Tutti ragazzi, buonasera, viva l'amore, viva il pompiname! Allora, partiamo subito dal lessico, cara Paola. Aiuto. Partiamo dal lessico che è importante. Aiuto. Perché questa sera parleremo di pucchiacame, giusto? Posso, ho detto bene il pucchiacame? Exactly! Ma che vuol dire esattamente? Il pucchiacame sarebbe praticamente la vagina, zona vaginale, il pucchiacame, o sbaglio? Sì. Da pucchiaccia sono esplicitamente campano, che vuole ripercorrere l'onomatopea della pucchiacca, insomma bagnata, mentre riceve del pistillame. Ecco, è un onomatopeico. Ecco, il pistillame che sarebbe il pistillame invece. Il pistillame. Ah, è un modo edulcorato per dire cazzo, insomma. Il alla pistillame, fine è e invece il pallame, il pallame è la sacca pallica che contiene gli due elementi pallici, insomma, il testicolo. Dunque siamo col pucchiacame, il pallame e il pistillame. Però qui la cosa importante è che tu nei giorni scorsi ti sei esibita sui tuoi social, in particolare su Instagram, con una sorta di vademecum sulla cunnilingus maschile, cioè la posizione esatta del pucchiacame quando deve porgere, quando deve facilitare la vita all'uomo. Questo è il punto fondamentale. Esatto, perché molte persone affrontano questa cosa, diciamo, il cunnilingus in maniera naturale, senza pensarci troppo, però tu dici ci sono delle posizioni da adottare. Quali sarebbero le situazioni da adottare? Sì, secondo me si potrebbe dare una mano a chi sta offrendo delle came, no? Sì, delle came, certo, delle came. Sì, sì. Insomma, io credo nella retroversione del bacino verso l'interno affinché la came sia porto più facilmente al soggetto che sta prestando il leccame. Con ordine, andiamo con ordine. Allora, non ho capito, la retroversione, sto prendendo appunti, è la retroversione. Retroversione verso l'interno, quindi in avanti, no? Sì, cioè, sì. Nel momento in cui il bacino da una lordosi deve andare all'opposite della lordosi. Sì. Buttando quanto più avanti il suo pucchiacame affinché lo si lasci appunto leccare un po' meglio. Allora, insomma, voglio capire una cosa, la posizione qual è? Quella posizione distesa, naturalmente, immagino. Sì, distesa. Allora, noi optiamo per la comodità. Optiamo per la comodità. Dunque, donna distesa, che sia divano, che sia letto, eccetera, eccetera. Sì. A quel punto che deve fare? Ci deve essere deve inarcare la schiena, che deve fare? Il contrario di inarcare, buttare il contrario, verso l'avanti. Ecco. Sì, l'opposite proprio, capisci? L'opposite, e le gambe come vanno messe? Belle divaricate. scusate, ma tu vedrai che più ti piacerà il leccame e più divaricherai le gambe in maniera naturale, quindi io sto pure sul sentire, capisci? Sì, c'è pure sul, bisogna sentire anche il momento, non è proprio, non è solamente tecnica, diciamo, non è solamente meccanica, sì, la cosa. Dunque, esatto, praticamente perché tu hai incontrato qualche volta delle difficoltà, cioè l'uomo può incontrare delle difficoltà se la posizione della donna, cioè se l'inarcamento e dunque la cioè, esatto, cioè non ho capito l'uomo... se il pucchiacame com'è che deve essere offerto, qual è la posizione esatta, cioè deve uscire fuori, non ho capito bene. Esatto, deve essere porto in avanti, ok? Cioè è come se la parte lombare della spina dorsale dovesse toccare la superficie dove sei appoggiata, capisci? È sì, quello sì, proprio. Sì, sì, e poi sì, fa anche tanto bene alla schiena, perché è anche un bel esercizio di ginnastica correttiva, quindi lo consiglio a tutti. Ma questa è una cosa che le donne secondo te sanno, oppure invece si lasciano semplicemente andare, eccetera, e a quel punto per l'uomo è più complicato? E perché per l'uomo è più facile farlo il cunnilingus nella posizione che dici tu? Allora, innanzitutto le donne che a volte ascoltano il proprio sentire sono direttamente portate, perché questo è un sentire del proprio corpo che si porta a mettersi in questa posizione. Ma ci sta magari qualcuna che lo fa in maniera più meccanica, che ha bisogno di un consiglio, e poi io sono io qui per questo, cioè insomma avrò un valore, il mio tutorialino tutorialetto avrà un significato. Ecco tutto. Sì, sicuramente. Poi c'è, da dire che l'uomo a volte è un po' banale e poco generoso, pertanto vuole ricevere nell'atto sessuale e raramente si dà. Quindi un piccolo aiutino lo mette nella condizione di essere più generoso e di prestare un leccame migliore. Ecco, il leccame tu lo gradisci oppure no? Cioè uno dei tuoi modi di gradire il sesso, il leccame, oppure è una cosa No, che... il leccame io lo adoro, però posso dire una cosa, se posso dare dei consigli? Sì, assolutamente. Questa parla come allora, Fusano praticamente. Cioè, dimmi. Questo partire un poco dalla lontana, questo concentrarsi pleonastico sulle pareti, lo trovo francamente superficiale. Cioè non ho capito questo... bene, tu se devi dare un consiglio a un maschio dici non si deve partire troppo da... No, esagerato, tutta sta cosa, tutta questa cosa filmica, ma quando mai? Cioè tu dici girare intorno, andare subito sull'obiettivo, dici, andare subito sull'obiettivo, assolutamente, tutto questo soffermarsi sulle pareti, ma perché a me la parete non mi fa godere? Cioè tu dici c'è troppa, in questo caso c'è troppa sceneggiatura, no? Cioè la parete, sì, l'insistenza, esatto, sulla parete, esatto, intorno, è tutta chiacchiera. Esatto, molto bello, ma tu capisci proprio subito, ma è incredibile, ma sei un alunno perfetto. Ma sì, cioè nel senso tu dici, tu c'hai questo pucchiacame davanti, no? Usiamo esatto, questa espressione, hai questo pucchiacame messo bene nel modo in cui abbiamo detto prima, messo bene, non ti puoi non dedicare subito all'essenza, non puoi andare subito, devi andare subito e non devi fare quei giri strani tanto esatto, per dare l'idea, tanto per dare l'idea che stai facendo un po' di cinema e che magari stai facendo chissà che cosa. Semplicità, il sesso è la cosa più normale del mondo, andiamo sulla semplicità, sulla banalità, sottrazione, questa è la parola chiave. Quindi io mi soffermerei sul fiore del pistillo, io lo chiamo il fiore del pistillo pucchiacale, che è rappresentato praticamente dal clitoride. Sì, ecco, sostanzialmente. Io lo chiamo il fiore. Cioè, uno si dovrebbe soffermare lì senza troppe, diciamo, senza giri di parole, diciamo la verità. Esatto, senza giri. Esatto. Oppure guidato dalla propria partner, andare a cercare quello che è il punto G esteriore, che magari per me si trova praticamente verso la sinistra, un po' spostato verso l'altro. Poi non so se per te sulla sinistra verso l'alto, per te sinistra verso l'alto. Sì, verso l'alto. Poi non lo so se negli altri pucchiacami. No, altri pucchiacchiami, ognuno ha il pucchiacchiame suo, amica mia. Cioè, ognuno ha il pucchiacchiame suo. Ognuno ha il suo modo di trovare i punti esatti dove andare. Sì, comunque... le chiamiamo le stazioni di servizio, quei punti blu. Brava, le stazioni di servizio. Cara Paola, mi sembra che abbiamo detto tutto, sia dalla parte dell'uomo che dalla troppo. Mi sembra che abbiamo anche troppo. La cosa fondamentale è questa: posizione del pucchiacame. Ma è un esibizionista questo? Posso chiedere, lei signora è un esibizionista? Beh, certo, è un esibizionista, no? Altrimenti non sarebbe. Possiamo dirlo questo tranquillamente. Vagamente, ma sono anche una persona molto propensa al sentire, sinceramente. Sì, pertanto, sì, no, ma questo è una cosa non esclude l'altra. Come hanno preso in famiglia l'amore? queste sue attività? Come l'hanno presa in famiglia queste ma sue che attività? Te ne frega te come hanno preso in famiglia le sue attività? No, mi interessa. Questo saranno più villani miei, per cortesia, Parenzo, ma su, dai. Scusi, signora Saulino, poi lei parla anche del leccaggio palle, però in questo caso non c'entra niente, è un'altra cosa questa qua, è un altro tipo, un'altra dinamica, cioè mi sembra. Il leccaggio pallico è un'altra cosa, il pallame è naturalmente diverso dal tucciacame, ci mancherebbe. È un'altra materia su cui si farà un altro tipo di tutorial. È interessante anche l'anilingus. Per esempio, l'anilingus verso la donna. Lei non adora l'anilingus, oppure no? Oppure... Allora, il mondo del culame è vario, culame ed è molto apprezzato. Sì. Io amo parecchio il leccame culamico, ma culamico, anche l'inserimento di vario ditame. Di vario ditame è importante. Ecco, un'altra cosa che si potrebbe affrontare in un altro tutorial è questo: mentre c'è la concentrazione sul pucchiacame, si possono inserire dita nel culame? Sì. Questo è il punto. Sì. O si devono? Sì. Secondo me è proprio il corollario al teorema del leccame pucchiacale. L'inserimento del ditame culamico è fondamentale. Mi sembra che abbiamo detto tutto, possiamo concludere. Bene. Grazie Paola, a presto. Ciao, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Come mai non telefonare?